è scomparso un altro villaggio. Presto la giungla tossica inghiottirà tutto. Sono trascorsi ormai 1000 anni dai giorni in cui i paesi più potenti del mondo si erano distrutti l'un l'altro. Quasi tutto il pianeta era stato coperto da una foresta velenosa soprannominata la giungla tossica. Sembra la pista di un mostro tarlo. Oh, un guscio vuoto di mostro tarlo. È immenso. Ha mutato guscio ed ha abbandonato il vecchio. Beh, da come risuona, sembra intatto. La mia daga si è spuntata. Per gli abitanti della valle è una fortuna. Quanti bellissimi attrezzi potranno fare con questa enorme corazza! Il guscio protettivo dell'occhio. Potrei provare a portarmelo via. Oh. un po' di polvere da sparo. Com'è leggero e com'è trasparente, è davvero stupendo. La pianta in pollina vermi sta emettendo le spore. Sembra una nevicata. E pensare che i miei polmoni marcirebbero subito se non avessi la maschera. Che cosa c'è? Sento una strana vibrazione. Sta accadendo qualcosa. Sta arrivando un mostro tardi. Senti come trema il terreno. Oh, scusa tanto. Eccolo lì. Sta venendo da questa parte. Da quello lì, meglio stare alla larga. Lancerò un razzo di allarme. Forse è meglio due. Eccolo che arriva. C'è qualcuno. Sta per raggiungerli. Devo fare qualcosa. Dietro quella duna! Va bene. Frutarlo. Torna nella giungla! Non puoi mangiare quel povero viandante! Su, fai il mostro educato! L'educazione non la conosce. Dovrò insegnargliela. Tramortito il mostro tarlo con dei lampi di luce. Chi sarà quel cavaliere del vento? Svegliati, mostro tarlo, e ritorna nella giungla! comincia a risvegliarsi. Il mostro tarlo va via. Quel cavaliere del vento è riuscito a domarlo con dei lampi di luce e uno specchietto. Non ci crederei se non lo vedessi coi miei occhi. Ehi! Ha-ha! Nausica! Sei cresciuta molto. Ormai è più di un anno che non ci vediamo, Lord Iupa. Sei diventata un vero cavaliere del vento e mi hai salvato la vita. Papà dice che ho tanto da imparare ancora. Oh, poverino, mi ero quasi dimenticato di lui. Oh, è il primo scoiattolino che vedo. L'ho salvato stamane, era stato preso da un calabrone gigante. Era piccolo e l'ho portato con me. Ehi, piccino, la vuoi una carezza? Il calabrone gigante stava per cominciare a mangiarselo. Ah, attenta, gli scoiattolini fanno male se mordono. Non mi morderà. Ehi, ehi, dove stai andando? Su, non avere paura. Su, annusami. Vedi, non ti faccio niente. Mi lasci? Mi hai morsa perché avevi paura. Lord Iupa, me lo regali, mi piace tanto. Tienilo pure, è tuo. Che bellezza, grazie! Kyle, Cui, vi ricordate di me? La mia piccola Nausica. Siete stanchi, vero? Con la corsa che avete fatto. Come vanno le cose nella Valle del Vento? Beh, sai... Che è successo? Mio padre... non può più volare ormai. Jill... il veleno della giungla tossica, vero? Già, è il destino di quelli che le vivono vicino. Dovevo venire prima a trovare tuo padre. Lord Iupa, la tua visita ci riempie di gioia. Ora che ci penso, voglio farti vedere una bella cosa che ho trovato. Un guscio di occhio di mostro tarlo. È veramente bello. Era su una corazza abbandonata. Chissà quante cose ci potremmo fare. Aspetta, ora te lo porto. Guarda che bello. Potresti metterlo su uno dei tuoi cammelli. Mi è un po' d'infaccia sulla mia ala. Hai imparato bene a cavalcare il vento. Su, muoviamoci. Lord Iupa, sei qui? Finalmente sei tornato fra noi. Va tutto bene nella valle? Acqua, vento e pace, è tutto come al solito, Lord Iupa. Bentornato! Ciao, piccola, ti trovo bene. Bentornato, Lord Iupa! Principessa, Lord Yufa è arrivato. Vengo subito. Lord Yufa, sono qui. Ah, il mio vecchio mito, come stai? Sto bene, Lord Yufa. Chissà quante cose hai da raccontarci del tuo viaggio. Ho finito, falla girare. L'hai aggiustata bene. Sembra a posto. È sopraffina la qualità di questo cristallo. Hai ragione, Lord Yufa. Possiamo andare a prenderne ancora domani. Facciamola vedere a Lord Yufa. Guarda, Lord Yufa, questa bambina è nata proprio oggi. Oh, fatti un po' vedere. Oh, è una gran bella bambina. Mi ricorda molto Nausicaa quando era piccola. Lord Yufa, vorresti essere il suo nobile tutore? E la fortuna sorrida a questa bimba con un vento buono. Sarò il suo tutore e questa bimba diverrà mia figlioccia. Ti ringrazio dell'onore che ci fai. Speriamo che possa crescere buona, sana e forte. È bella come la nostra Nausicaa, ma senza quella sua pericolosa abitudine di andare a girare nella giungla tossica. Hai già dimenticato che ho trovato un guscio di mostro tarlo? Già, è vero. Chissà quanti belli attrezzi ne tireremo fuori e quanto lavoro ci sarà per me. Oh, il povero mito è sempre molto stanco. Se non ci fosse lui, questo castello crollerebbe a pezzi. Deve essere per questo che io lo trovo sempre addormentato. Come guarda il castello! Si sta così bene in questa valle. Mi si riempie il cuore di pace quando vengo a trovarti qui. Com'è andato questa volta il tuo viaggio? Ho visto cose terribili. Altri due villaggi nel sud sono stati inghiottiti dalla giungla tossica. Quella maledetta giungla continua a estendersi. E dovunque sono passato ho incontrato guerre e fame. C'è troppo odio a questo mondo. Lord Yufa, perché non vieni a vivere qui con noi? Non lo convincerà mai a stabilirsi nella nostra pacifica valle. Lord Yufa è destinato a cercare in eterno. Peccato, Yufa. Nello stato in cui sono mi aiuterebbe averti qui. Per favore, fermati con noi. È ora che tu viva tranquillo. Inutile cercare di convincerlo. Non c'è tranquillità per chi come lui è destinato a cercare in eterno. Destinato a cercare? Ma grandamma, cercare in che senso? Cercare in che senso è uno solo il concetto della ricerca. Guarda quel sacro arazzo appeso dietro l'armatura. Non riesco più a vederlo con i miei stanchi occhi, ma c'è un uomo nell'angolo a sinistra. Un uomo vestito d'azzurro scenderà dal cielo e radunerà attorno a sé tutti coloro che sono ancora vivi al mondo e li condurrà a nuove terre, a terre incontaminate e pure. E li condurrà a nuove terre ancora incontaminate e pure. Molte volte ho sentito questa storia, ma è soltanto una leggenda, vero? Grandama, pensi troppo alle vecchie storie. Forse sì e forse no. Comunque è vero, Nausicaa, che in eterno io sono destinato a cercare. Cerco di scoprire il segreto della giungla tossica, perché o noi riusciamo a dominarla o essa inghiottirà tutti noi, e prima di quanto crediamo. Quanto vorrei aiutare Lord Yufa nella sua ricerca. Principessa! Principessa! Sì, Mito, che cosa c'è? Gol sente qualcosa di strano nell'aria. Ormai è quasi l'alba. Vengo subito. Cosa c'è, Gol? C'è buon vento, Nausica, ma con dentro uno strano odore. Guardate lassù! Lì c'è una luce! È una nave. E cosa viene a fare una nave qui alla frontiera? Che sta succedendo? Lord Yupa, arriva una nave. Una nave qui? Guardate! Ma è immensa! Delle più grosse navi di Tolmeichia. È in atterraggio di emergenza. Io le volo incontro per guidarla alla spiaggia. Cosa? Ma no, principessa, è pericoloso. Principessa! Le indico dove atterrare. Sta ritornando qui. Di quando vuoi che ti sganci. Sgancia! Fatto! La nave è tutta coperta di vermi giganti. I piloti non vedono niente, devono essere entrati nella giungla. Attenti alla montagna, dovete riprendere quota. La montagna, attenti! La nave è precipitata. La principessa è in pericolo. Andiamo! Tutti gli uomini abili vengano con noi! La ragazza che ho visto, forse è ancora viva. Dove sono? Sei nella Valle del Vento. La nave, bisogna bruciarla subito. È bruciata. Ma meno male, era troppo pericolosa. Per i vermi giganti. Sì, hai ragione, però è bruciato tutto quanto. Che sollievo. Principessa! Voi da quella parte, voi di là. È morta. Era la principessa reale di Peite. Attenzione! Un tafano gigante è vivo! Maledizione, sta chiamando altri tafani! È ferito! Non può volar via! Bisogna ucciderlo! Bisogna ucciderlo subito! No, se spari peggioriamo le cose! Ma ne arriveranno a migliaia se noi... Aspettate! Mito, vai a prendere la mia ala! Subito! Principessa! Su, torna alla tua giungla, sei guarito, puoi volare ora. coraggio, vola via. Principessa, ecco la tua ala. Riuscita a farlo volar via. Migliaia di tafani giganti sarebbero arrivati. Cercate dappertutto, bisogna essere sicuri, per noi può essere la fine. Venite qui, ho trovato una spara. È qui sotto. Forse era rimasta attaccata alla nave che è caduta. Sta crescendo a vista d'occhio. Guardiamo se ne troviamo altre. Sono una brutta cosa queste spore velenose. Che cosa sarà questa cosa enorme? Strano, l'incendio della nave non l'ha nemmeno scalfita. Guardate se trovate altri corpi fra i rottami. Dobbiamo dare sepoltura a tutti. Andiamo al lavoro, forza, ragazzi. Datevi da fare, dividetevi il lavoro. Ce ne vorrà prima di togliere di mezzo tutto. Mito, mi sembra che si muova. Sì, è vivo, indubbiamente, e a guardarlo si direbbe quasi... Lord Yuba, mi sbaglio, vero? Nel corso dei miei viaggi ho sentito girare voce che è stato trovato un mostro del vecchio mondo, sepolto sottoterra nella città di Peite. Che mostro del vecchio mondo, Yuba? Un soldato invincibile. Come uno di quelli che hanno distrutto il mondo nei 7 giorni di fuoco. Tremo a pensarlo. Giganteschi soldati invincibili si sono trasformati in fossili da secoli. A quanto pare uno di loro è rimasto addormentato sottoterra per 1000 anni. Un soldato invincibile gigante, è spaventoso quello che potrà fare. La nazione di Tolmeichia continua a compiere ogni giorno nuove invasioni. E se avesse un soldato invincibile, chi li fermerebbe? Continuate voi! Sento uno strano rumore. Cosa c'è? Che succede? I tolmeghiani! Aiuto! Aiuto! Il servo! sono navi tolmeziane, stanno atterrando qui! Tutti sulle montagne, andate a rifugiarvi sulle montagne! Presto, allontanatevi! Papà è al castello! Va via, grandama, cerca di nasconderti. No, io rimango qui. Non andare, principessa. Ehi, non muoverti tu! Questa lama è ricavata dalla corazza di un mostro tarlo. Può trapassare le vostre armature come se fossero burro. Ma chi è quell'uomo? Yuba! Ascoltate, la gente di questa valle ha fatto tutto ciò che era possibile per salvare i vostri compagni che erano nella nave caduta ieri. E quando voi ci avete attaccati a tradimento, stavamo procedendo alla sepoltura dei loro corpi. Se volete cominciare una guerra contro di noi, a parte il fatto che non ne avete ragione, sarebbe stato corretto da parte vostra mandarci un messaggero con la dichiarazione di guerra. Nausica, mantieni il controllo, ti prego. È necessario arrendersi o faranno strage del tuo popolo. Dobbiamo saper aspettare e attendere il nostro momento. Brutta mocciosa! Fermo, Krotova! Ma tu guarda! Quanti bravi soldati è riuscita ad uccidere quella piccola arpia! Mi hanno toccato le tue parole. Tu sei quello Yupa Milada che gode fama di essere un grande spadaccino? Comunque non abbiamo intenzione di aggredirvi, malgrado il modo in cui siamo arrivati. Puoi metter via il tuo pugnale. Oh, principessa! È la principessa! Ma è la principessa Nausica! Evviva! Ascoltate! Sua Altezza Imperiale, la principessa Kushana di Tolmeikia, vuole parlare a questo popolo! Siamo venuti qui perché vogliamo unire tutti i popoli in un immenso, nuovo, pacifico reame! Voi temete la giungla tossica e non sapete come combatterla! La prima cosa che intendo fare è bruciarla tutta. Così noi potremo di nuovo seminare e avere grandi raccolti. Bruciare la giungla tossica, ma ti sembra possibile? Un tempo noi uomini eravamo i signori della terra e possiamo tornare ad esserlo se distruggiamo la giungla tossica. Perciò vi dico, unitevi a noi e potremo tornare ad essere ciò che eravamo una volta, i padroni di questo pianeta. Ma che stai dicendo? Bruciare la giungla tossica, guai a provarci! Silenzio, stupida vecchia! Voi, portatela via! Lasciala parlare! Sono quasi 1000 anni che esiste la giungla tossica e molte volte gli uomini hanno tentato di distruggerla col fuoco. Ma ogni volta che le si è dato fuoco, sciami di mostruosi insetti giganti hanno invaso la terra, portando con sé morte, fame e distruzione. Le città sono state distrutte, intere popolazioni sterminate. Meglio non toccare neanche con un dito la giungla tossica, è troppo pericoloso. I milioni di miliardi di insetti giganti che le vivono dentro vanno lasciati in pace, non provocati. E miliardi di spore velenose sono pronte a volare nel cielo per sterminarci. Pace, stupida vecchia, e basta con le tue sciocchezze! Vorresti uccidermi? Bel coraggio minacciare una povera vecchia! Oh, fa silenzio oppure... Non è difficile uccidere una povera cieca. Che aspetti? Uccidimi come hai ucciso Re Gil, che non poteva neanche alzarsi dal letto. Re Gil è morto. Hanno ucciso il re! Assassini! Assassini! Assassini! Fatele smettere! Non abbiate pietà con questi cialtroni! No, fate silenzio, vi prego. Statemi a sentire, per favore. Non possiamo far niente ormai, perciò... chiniamo la testa e rassegniamoci. Principessa. Nausica. Anche tu, grandama, sii ragionevole. Non possiamo far altro che obbedire. È veramente molto bella questa ballata. Non ho tempo per il panorama. Il comando imperiale ci ha ordinato di portare al più presto il soldato invincibile. È impossibile eseguire quell'ordine. Nemmeno la nostra nave più grande sarebbe in grado di sollevare il suo peso. Non avrai parlato sul serio facendo tante promesse a questa gente. Questo riguarda solo me. Tu sei d'accordo con quei pazzi che vogliono richiamare in vita il soldato invincibile? Beh, io la trovo una decisione grave. Però, come soldato, devo obbedire agli ordini del mio imperatore senza discutere. Il solito volpone. Intendo tornare a Peite. Tu intanto cerca di rianimare il soldato invincibile. Bene. È funzionante quest'ala da guerra? Sì, è in ottimo stato. Parliamoci chiaro. Io non ve lo sto domandando. Io ve lo ordino. Ma non potete portar via la nostra principessa. Oltre alla nostra ala da guerra, volete anche la principessa? Scegli chi vuoi condurre con te e siate pronti alla partenza domani mattina. Vi auguro buona fortuna. Noi ce la caveremo, ma per il villaggio sarà dura. Stanno portando via tutto. Andrò via di qui stanotte. Tornerò non appena i tempi saranno maturi. Bisogna impedire a questa gente di rianimare quel mostro. Certo. Nausica! Scoiattolino, dov'è la tua padrona? Accompagnami da lei. Nausica, da dove vengono tutte queste piante? Sembrano piante della giungla tossica. È così, ho raccolto le spore e le ho fatte nascere. Sta tranquillo, non ne mettono veleno qui. Ma com'è possibile? Sembra che qui dentro l'aria sia pura, ma le piante... Ma che vedo? Una pianta di arsenico con i fiori, incredibile. Le irroro con l'acqua che le pompe del castello aspirano a 500 metri nel sottosuolo. Anche la terra che hanno viene dalla stessa profondità. Ho scoperto che le piante della giungla tossica non sono velenose se vivono in un ambiente puro. In sé le piante sarebbero innocue. È la contaminazione della terra che le rende mortali. Anche l'acqua e la terra di questa valle sono contaminate. Chi ha ridotto così il mondo? E hai scoperto tutto questo da sola? Sì, volevo fare per mio padre delle medicine con le piante, ma ormai non potrò finire le mie ricerche. Tutte queste piante moriranno senza le mie cure. Nausicaa, su, non piangere. Io ho paura di me stessa, Yupa. Io non voglio, lo sai, ma sento il cuore che mi ribolle d'odio. Io non voglio soffrire, né far soffrire. Sono molto buoni. Puoi mangiarli durante il viaggio. Vi ringrazio. Devono essere molto buoni. Vi ringrazio di cuore. Oh, non, non piangete ora. Tornerò presto, vedrete. Soli a bordo, stiamo per partire. Vi prego, ora basta piangere. Ve lo prometto, ritornerò presto da voi. Veramente? Ma certo, io vi ho mai detto una bugia finora. No. E quindi? Ritorni? Sì. E sei sicura? Tornate dalle vostre mamme. Sì, torna presto, mia amica. Abbiate cura della nostra principessa! Trattatela bene! Quanto ci vorrà per arrivare a Peite? Beh, molte, molte ore di viaggio. E questi sedili sono così scomodi. Quando arriveremo avrò un mal di schiena spaventoso. Ma perché le navi volano così vicine tra loro? Per proteggersi meglio da un attacco nemico. Solo un pazzo può attaccare tante navi tutte insieme. C'è un mulinello di aria velenosa fra quelle nubi. Oh! Non vi muovete! Un'ala da guerra! L'ha colpita! Sta precipitando! Oh, Ci stanno attaccando, a quanto pare. Speriamo che vada a finire tutto bene. Tutti ai posti di combattimento, presto! Eccolo! L'altra della nostra nave è colpito. Quei poveretti moriranno. Quel pilota ha buona mira. Maledizione! Un'altra nave colpita! Ecco che torna di nuovo! Nasconditi qui! Principessa, stiamo per cadere anche noi. La nave sta bruciando. Basta ora! Basta con le uccisioni! Tra poco esploderemo. Ah! Sbrigati, Miso! Vengo, principessa, ma non correre tanto, sono vecchio io! Prendiamo la Ma lì c'è il fuoco! Su, Miso, va presto! Detesto il fuoco! Io accendo i motori, tu apri il portello! Ci provo! Salta! Su, vieni! Mettiti dentro! Sei pronto, Mito? Pronto, principessa! Il portello è ancora chiuso! Presto, sfondalo! Speriamo bene! State pronti! Via! Mettete le maschere antitossiche! Scenderemo sotto le nuvole a cercare i sopravvissuti! Non si vede niente. Speriamo bene. Siamo sopra la giungla tossica! Voliamo in mezzo ai miasmi velenosi! Guarda, Mito! Sulla destra c'è la nave con dentro i nostri compagni! Dove? Stanno scendendo nella giungla! Nella giungla tossica! Li vedo! Andiamo a salvarli! Nella giungla si muore! Nausica! Evviva! Vi lancio un cavo di traino e vi farò prendere quota! Impossibile! Il gancio di traino è rotto, ormai possiamo solo atterrare! Non ho voglia di essere spolpato dalle formiche rosse giganti! Meglio morire subito! Buttate fuori il carico, cercate di alleggerire l'aliante! Aiuto! Alleggeritevi! Mito, arresta i motori! Che vuoi fare? Costringerò quegli uomini a salvarsi! Come? Ma che cosa sta facendo? Sta respirando l'aria tossica! Senza maschera si muore qui! Principessa, rimettiti la maschera, ti prego! Presto, presto, principessa, rimetti la maschera! Qui l'aria è tossica! Se volete che me la metta, fate ciò che vi dico! Gettate subito il carico fuori bordo! Sì, principessa, faremo tutto quello che come vuoi! Come rimetti la maschera, presto!

grazie di averci risparmiati. E che la fortuna vi assista! Il mostro Tarly se ne va. Che ci succederà adesso? Principessa Nausicaa, che vuoi fare adesso con la tua ala? Appena l'acqua si calma, decollate e aspettatemi sopra la giungla. Se non mi vedete entro un'ora, tornate alla Valle del Vento. Dove vai, principessa? A cercare i sopravvissuti! Sta attenta, principessa! Questa è meglio che la prenda io. Facciamo come la principessa ha comandato. Attaccate il cavo al gancio di traino, vi tireremo su. Che la fortuna ci assista. Maledizione! Che faccio adesso? Sono troppi! È finita! Ma chi sei tu? Nausicaa della Valle del Vento. Sei troppo pronto a uccidere, perciò siamo nei guai. Sabbie mobili! Devo salvarla! Più di due ore che la stiamo aspettando ormai. Principessa, dove sei? Principessa, va presto a tornare! Nausicaa! Nausicaa! Papà! Vieni con me. Eccomi. Su, vieni. Bambina mia, vieni con me. Su. C'è anche la mamma. No, non voglio venire dove andate voi. con voi. Io voglio vivere ancora. No, andate via, voi siete morti e io voglio continuare a vivere. Un mostro torlo appena nato. Ero sicuro che prima o poi una cosa del genere sarebbe accaduta. Dammi quel mostro tarlo, no. Nausica. No, è così piccolo, non potete ucciderlo. Gli insetti sono nostri nemici e noi dobbiamo distruggerli, lo sai. Lascialo! No, lascialo! Non ucciderlo! No, ti prego, non ucciderlo. Non ucciderlo. Oh, sei tu. Luogo meraviglioso. Ciao! Ho trovato la tua ala. Come ti senti? Ma dove siamo finiti? Non so proprio come ringraziarti. Io sono Asbel di Peite e tu mi hai salvato la vita. Io sono Nausica e vengo dalla Valle del Vento. Hai idea di dove siamo? Anch'io ci ho messo un po' a capirlo. Questa è la base della giungla tossica. Siamo alla base della giungla? Certo, noi siamo caduti qui dallassù, attraverso le sabbie mobili. Ma stiamo respirando senza maschera. Proprio così. Qui l'aria è pura e incontaminata. È difficile credere che possa esistere un tale paradiso nella giungla tossica. Che cos'hai? Nausica! Non allontanarti troppo! Che meravigliosi alberi pietrificati. Nelle loro fibre scorre ancora l'acqua. La sabbia che c'è in fondo al pozzo, da cui estraiamo acqua pura giù nella valle. Gli alberi pietrificati si sbriciolano e le loro briciole diventano sabbia. Nausica! Ma tu stai piangendo? Perché sono felice. L'Astel era mia sorella gemella. Non sapevo che fosse morta nella vostra valle. Mi dispiace, era molto che non la vedevi. Sì, molto. Tremo al pensiero che ho rischiato di ucciderti attaccando le navi. Sarebbe stato davvero orribile. Ma non potevi sapere. Questi dolcetti, quindi, li fanno nella Valle del Vento. Perché li chiami dolci? Sono amarissimi. Sono fatti con una noce un po' amara, ma molto nutriente. Non ho mai mangiato niente di più amaro, ma ho una fame che mangerei di tutto. E per questo ci sarebbe la giungla. Mi sembra un'ipotesi un po' troppo fantasiosa. Gli alberi della giungla assorbivano dall'atmosfera l'inquinamento che l'uomo continuava a creare con le sue troppe macchine. Gli alberi assorbivano tutto il veleno e morivano. E poi si trasformavano in pietra, e la pietra diveniva sabbia. È così che hanno avuto origine queste enormi caverne. E le piante al di sopra sono diventate giungla tossica. Regno degli insetti giganti, che continua sempre ad allargarsi. Sarà la fine dell'umanità se non riusciamo ad arrestare l'accrescersi della giungla tossica. Dovremmo bruciarla tutta. Forse il fuoco è l'unica soluzione possibile. Parli esattamente come parla Kushana. No, noi siamo diversi da quella donna assetata di conquiste. E lo capirai quando conoscerai i miei compagni. Cerca di dormire ora, Asper. Domani dobbiamo andare molto lontano da qui. Qui tutto bene, signore. Come procede? Bene, abbiamo quasi finito la parte superiore. Ci vorrà più tempo del previsto per rigenerare questo soldato invincibile. Comunque. Allora, come sta il mio piccolo mostriciattolo gigante oggi? Tu, con la tua furia, presto riuscirai a portare al potere e alla gloria questo piccolo oscuro soldatino. Non mi fare quelle smorfie, sai. Io ti risbatto sottoterra e ti ci lascio marcire fino alla fine del mondo. Generale Krotova. Cosa c'è? La flotta di Sua Altezza è stata attaccata da alcuni sopravvissuti dell'esercito di Peite. Sua Altezza si è salvata? Sappiamo che la sua nave è esplosa, generale. Attendiamo ordini. Quindi la flotta è distrutta e Sua Altezza forse è morta. Lasciatemi solo qualche momento, devo meditare sulle decisioni da prendere. Agli ordini! Finora la fortuna mi ha sorriso. In pochi anni, partendo dalla gavetta, sono diventato generale. Mito è tornato con molti suoi compagni. Ti stanno aspettando in riva al lago Acido. E così abbiamo dovuto tornare senza di lei. Capisco. Avete fatto il possibile, ma... Cosa farete di me? Se prometti di gettare il soldato invincibile nella parte più profonda di questo lago, sarai libera di andare. Non hai molti soldati nella valle. Sarebbe facile sgominarli, ma basta con le inutili uccisioni. Quel mostro non può essere distrutto, ed è impossibile spostarlo, è troppo pesante. Ma non lo hai ancora capito, non si può più tornare indietro. Ho attaccato Peite perché il fatto che possedesse un soldato invincibile era una grave minaccia. Ormai si è sparsa la voce che si trova qui e vorranno impossessarsene gli eserciti di altre nazioni. Nella situazione attuale dovete fare una sola cosa. Se non volete essere annientati, dovete rianimare il mostro e usare la sua forza per dominare il mondo intero. Guardate. Opera degli insetti? Cose molto peggiori mi hanno fatto gli insetti. Molto, molto peggiori. Dovete bruciare la giungla tossica, sterminare quelle bestiacce. È questa la nostra missione. Ora potete impossessarvi del soldato invincibile, ma fatene buon uso. Noi non risveglieremo quella creatura infernale. Grandi notizie! Di la parola d'ordine. È una grave emergenza. Valle? Del vento! Entra. Alcune spore sono sopravvissute. Spore? Dove sono? Il villaggio è in subbuglio. Le spore hanno cominciato a spargere veleno. Ce ne sono tantissime. Crescono a vista d'occhio. Ormai tutti gli alberi sono infestati. Bisogna fare qualcosa. Andiamo, facciamoci rifiutare. Date il lanciafiamme. Restituiteci il lanciafiamme. Copriamo a bruciare le spore. Potrebbero usare i lanciafiamme contro di noi. Meglio non darglieli. Dategli ciò che chiedono, ma dia ai soldati di stare in guardia. Agli ordini. La nave da guerra è pronta al decollo. Va ad avvertire il comandante delle nostre forze a Peite di venire con i suoi uomini a darci manforte. Vado. Mossa astuta, ho un cervello da gran volpone io. Ti prego, Yupa, ritrova la principessa. Voi tenete la situazione sotto controllo. In bocca al lupo. Ora torniamo al villaggio, presto. Guarda se questo è sano. La spora ha attecchito anche qui. Che disastro. Ormai infestano tutti i nostri alberi. Anche questo è infestato. Sì, via! Toglietevi voi. Lasciateci lavorare. Ecco la grandana, l'indovina. Che cosa ci consigli? Dovete bruciare tutti gli alberi. Non c'è più nulla da fare per questo frutteto. E dovete far presto. Tutta la valle verrà inghiottita dalla giungla tossica. Colpa della nave di Tolmechia che è venuta a cadere qui. Lei ha sparso nel nostro villaggio queste spore velenose. Sì, hai ragione. La colpa di tutto questo è soltanto loro. Bruciano il frutteto perché è invaso dalle spore. Andiamo ad aiutarli. Non capisco i tuoi sospetti. A me sembra tutto assolutamente normale. Non c'è neanche un insetto. Batte forte il cuore. Sta per accadere qualcosa di brutto. Ci siamo quasi. La nostra città è sulla cima di quella montagna. C'è qualcosa che non mi convince. Non c'è anima viva in giro. Aspen, rimetti subito la maschera! Ma sono insetti! E sono morti! Andiamo a Peite! Dobbiamo stare attenti. C'è l'esercito tolmeichiano in città. aiutarlo. È morto. La nostra meravigliosa città completamente distrutta. A che serve adesso annientare i tolmechiani? Ormai la città di Peite non esiste più. Annientare i tolmechiani? E come pensi di farlo? Arriva qualcuno. È una delle nostre navi e sta per atterrare. Andiamo. Osbel, sei ancora vivo? Ma che cosa avete fatto? La città è completamente distrutta. È il prezzo che abbiamo dovuto pagare per la distruzione dell'esercito tolmeichiano. Ma il soldato invincibile è ancora intatto. Lo so, è nella Valle del Vento. E come lo sapete? Non abbiamo oziato mentre tu non c'eri. Abbiamo messo in azione il piano B. Stanotte distruggeremo l'esercito tolmeichiano nella Valle del Vento. Cosa? E in che modo volete distruggerlo? Osbel, chi è costei? Nausicaa, della Valle del Vento. Mi ha salvato la vita. Della Valle del Vento? Come distruggerete i tolmeichiani? Osbel, tu sai in che modo, non è vero? Dimmelo! Sì, con gli insetti giganti. È in questo modo che Peite è stata distrutta! Non potete far questo! Dobbiamo impossessarci del soldato invincibile prima che venga rianimato. Se non lo facciamo, per il mondo sarà la fine. E non vi importa di distruggere tutto il mio popolo? Non potete far questo, troppi innocenti moriranno. Troppo tardi ormai. Per la tua valle non c'è più niente da fare. I tolmeichiani hanno distrutto quasi tutto il nostro esercito. Non ci resta altro modo che questo. Ferma, dove vai? Fermatela, non deve andare via! Stai buona! Ferma, lasciatemi! Devo andare ad avvertire il mio popolo, lasciatemi! È troppo tardi, rassegnati! Nulla li può salvare! È doloroso ma necessario. Una volta in possesso del soldato invincibile, bruceremo la giungla tossica e la vita ricomincerà. Ma a che prezzo? Non siete meglio dei tolmeichiani! Col soldato invincibile vogliono sottomettere il mondo. Ma non capite che se riprendete il soldato invincibile, i tolmeichiani faranno di tutto per rientrarne in possesso. Il loro esercito è troppo forte per voi. Sarete costretti ad usare il soldato invincibile per difendervi da loro prima o poi. E usare il soldato invincibile per distruggere altri uomini è una cosa troppo ignobile e mostruosa. E che altro dovremmo fare? Permettere ai tolmeichiani di ridurci in schiavitù? No! Asventigli che non possono bruciare la giungla tossica. Se lo fanno sarà la fine per tutto il mondo. Ti prego, Asvel, aiutami! Ma cosa fai? Fermo o sparo. E voi, lasciatela subito. Sei impazzito, Asvel. Lasciatela, ho detto. Va, Nausicaa. Corri subito ad avvertire il tuo popolo. Asvel, assassini! Poveri sciocchi. Sono troppi, non riusciremo mai a fermarci. Ci fosse almeno Lord Yuba ad aiutarci. E cosa fate voi qui? Andate con gli altri ai carri armati. Agli ordini. Generale, gli uomini del paese si sono radunati. E vengono al castello? No, stanno lottando con degli insetti. Tanto meglio per noi. Avremo più tempo per rianimare il soldato invincibile senza quei bifolchi tra i piedi. Un omaggio da parte nostra! Hanno preso un nostro carro. Su, cerca di far funzionare questo coso. Se sapessi come si fa. Quei bifolchi ci stanno addosso. Presto, all'attacco! Bene, fai muovere o no? Ci sto provando. Ecco, si muove! Ci sono riuscito! Guarda che è in avanti che dobbiamo andare. Ah, non sei mai soddisfatto. Tutti i nostri carri vadano ad attaccarlo. Kushana è viva. Oh, beh, addio ai miei sogni di gloria. Altezza! Qui ci pensiamo noi a fermarli col carro. Voi andate tutti al lago acido. D'accordo, sicuri. Andiamo, presto. Andiamo! Troveremo un punto in cui attestarci finché non ritorna Yupa con l'ala da guerra! Su, muovetevi, presto! Dobbiamo andarcene di qui! Ecco i carri armati che ci attaccano! Ma ce l'ho anch'io un cannone! Fatevi sotto che vi faccio a pezzetti! E tu, gira da quella parte, se no mi spieghi come faccio a sparargli! Allarme! Nave di ferita in vista! Ne sei sicuro, soldato? Sì, signore, sono sicuro. È dietro quelle nuvole, una nave di ferita. Attacchiamo! D'accordo, se proprio ci tenete, ma fate attenzione. Su, fa presto. Nausicaa, noi vogliamo aiutarti a fuggire. Devi correre alla Valle del Vento ad avvertire il tuo popolo di quello che sta per accadere. La tua ala è pronta. Asbel ci ha detto tutto ciò che è accaduto. Io fingerò di essere te, così potrai uscire. Ma chi siete voi? Sono la madre di Asbel e di Lasbel. La mamma di Asbel. Oh, mi dispiace per sua figlia. I nostri uomini stanno per commettere un grave sbaglio. Presto. Dobbiamo impedirglielo. Andate. E quella ragazza? Sta tranquilla, non le succederà niente. Buona fortuna, Nausicaa. E perdona i nostri gravi torti. Nausicaa, di qua. Eccomi. Su, presto. Vi ringrazio con tutto il cuore. Ho fatto più presto possibile. Puoi decollare di qui? Ci proverò. C'è una nave da guerra. Chi dorme dietro? Portiamoci fuori tiro, entra in quelle nuvole. Cessate il fuoco! Poveri pazzi, ne troveranno di fulmini dentro quella nube. La nave non risponde più ai comandi. La nave sta andando in pezzi. Esci dalla nube. Siamo costretti ad affrontare i tolmeichiani. Oh, ci stavano aspettando. Che cosa hanno intenzione di fare? Cercano di costringerci a rientrare nella nube. Attaccano la nave. Devi andare, ora o mai più. No, Asbel, rimango con voi. Non posso abbandonarvi in un momento come questo. Affronterò i tolmeichiani al vostro fianco. Non fare la sciocca, tu sei l'unica che può salvare la Valle del Vento. Non è il momento di fare stupidi eroismi, vai! Oh. fuoco! Occupate il resto della nave, ricordatevi, non prendiamo prigionieri. Presto, Nausicaa, decolla! Principessa Nausicaa! Mito! Mito! Lord Yuppa! Principessa! Salvateli! I tolmecchiani li uccidono tutti! Ora ti lanciamo un gancio di traino! È la leva rossa a destra, Lord Yuppa! Battete la porta e sterminateli! Muovetevi! È finita! La porta sta per cedere! Venite a prenderci! Vi mostreremo come sanno morire gli uomini di Peite! Cos'è quello? Non so... Una nave da guerra! Della Valle del Vento! E Lord Yuppa! Muovetevi voi, uccidetelo subito! Prendiamolo! Arrendetevi, abbiamo distrutto la vostra nave da guerra. Ci arrendiamo! Dobbiamo rallentare! Il motore sta per esplodere! Non possiamo rallentare! Rischieremmo di non arrivare in tempo! Oh, vento, ti prego, aiuta Aspel e tutti i suoi compagni! Non capisco cosa aspettano dentro quel relitto. Aspettano il ritorno di qualcuno. Qualcuno chi? La principessa Nausicaa potrebbe tornare con la nave da guerra. Beh, per noi sarebbe un bel problema. Forse sarà meglio attaccarli subito. Tu sai che nave era il relitto che c'è lì? Una nave antica, costruita prima dei 7 giorni di fuoco. Non so se sia vero o no, ma dicono che ci si potesse andare sulle stelle. La corazza dello scafo sembra molto resistente, ma riusciremo ad entrarci senza problemi. Preferisco aspettare Nausicaa. Oh? Quella ragazza è stata capace di uscire viva dalla giungla tossica. Voglio farle i miei complimenti prima di ucciderla. Allora, avete pensato alla mia proposta? Non li uccideremo se li convincerete ad arrendersi. O volete essere annientati come il popolo di Peite? Tu sei una principessa, non è vero? È strano, credevo che fossero tutte buone come la nostra. Guarda come sono ridotte le mie mani, Kushana. Ho lo stesso male che il nostro re aveva ai piedi. Tra pochi mesi si saranno indurite come la pietra e non potrò più muoverle. La nostra principessa stava studiando delle cure per guarirci. E forse avrebbe fatto in tempo a trovarle se non foste arrivati voi. Se la giungla tossica vi dà tante malattie, perché vi ostinate a non volerla distruggere? Voi volete usare il fuoco. E certo, qualche volta il fuoco lo usiamo anche noi. Ma troppo fuoco serve solo a peggiorare le cose. riduce gli alberi in cenere velenosa. Cenere velenosa che, portata dal vento, provocherebbe troppi morti. Per Nausicaa la giungla tossica può cambiare? Dandole acqua pura e terra non contaminata. Generale, hai ordini da darci? Sì, non mi seccate. Agli ordini. Non so che le sta succedendo, ma comincia quasi a piacermi. Krotova, fa liberare i prigionieri. Ah? Liberarli? E perché? E fa dare subito il rancio ai soldati. Attaccheremo entro un'ora. Sì, il rancio, buona idea. Ho un languorino allo stomaco. Arriva qualcuno. È Gol, con gli altri. Ma che cosa succede? È caduto il vento. Sì, hai ragione. Una cosa del genere non era mai accaduta. Oh, Grandama, che cos'hai? Cosa senti, Grandama? È la prima volta da tempi immemorabili che il vento non soffia su questa valle. Io ho dolore alle orecchie. Grandama, c'è una strana vibrazione nell'aria. Sì, hai ragione, il cielo è pieno di odio. Quanto manca? Ci siamo quasi, principessa. Abbiamo superato la giungla tossica. Diminuisco la velocità. Scendiamo sotto le nubi. Cosa sono tutte quelle strane luci? Mostro Tarly! Ma sono milioni e stanno andando tutti dritti verso la nostra valle! Li stanno mandando lì, ma come avranno fatto? Cosa che li rende furiosi. Mito, andiamo a vedere più avanti. Bene. C'è qualcosa? Mito, spara un razzo! Subito! Razzo tracciante! Presto! Ma che stanno portando? Cosa orribile! Usano le grida di uno dei loro piccoli per farli infuriare! Mascalzoni, vi insegno io! No, Mito, non sparare! Non rispondere al fuoco! Non sparare, Mito! Perché non devo sparare? Perché se il piccolo rimane ucciso, la valle verrà distrutta! Ma che cosa cambia, Nausicaa? Verrà distrutta in ogni caso! No, possiamo ancora salvarla se riusciamo a riportare quel piccolo e mostratarli! Principessa, che vuoi fare? Voglio liberare quel piccolo! Principessa, no! Sei anche disarmata! Non è stata una delle nostre navi a lanciare quel razzo. E chi allora? Comunque lo hanno sparato dall'altra parte del lago acido. Che sia la loro nave da guerra? È possibile. Thank you. razzi traccianti per illuminare il bersaglio. È la loro nave da guerra. Dà l'ordine di attaccare prima che arrivino. Non volevi aspettare? Meglio non lasciare niente in sospeso. Prima squadra! Avanti! Va al riparo, Kushana. Sto bene qui. La loro nave da guerra! Aprite il fuoco! Cessate il fuoco! Basta, smetti tu! È la nostra nave, andiamo, presto! Sì. Mantenere la posizione, ma senza sparare! Dove vai, Kushana? E Nausicaa dov'è? Dov'è la principessa? Nausicaa non è ancora tornata. I mostrotarli! Milioni di mostrotarli vengono qui! Che cosa hai detto? Vengono qui? La principessa sta cercando di fermarli. Non è più tempo di combattere. Rifugiatevi sulle alture, presto! Su, sbrigatevi o morirete tutti! Rifugiatevi sulle alture! Di cosa stanno parlando? Oh, grandama, si vedono tante luci rosse! E diventano sempre più grandi! Sì, si stanno avvicinando! State vicino a me, bambino, statemi vicino! È troppo tardi per impedire che il nostro destino si compia! Mito, ormai sono sicura che morirò. Fammi andare a morire a casa mia, ti prego. No, non puoi arrenderti mentre la principessa sta lottando per salvarci. Soldati, respingete l'attacco degli insetti. Ho bisogno di un po' di tempo. Kushana, ma che cosa vuoi fare? Potrebbe essere rischioso. Rischioso vuol dire che correremo il rischio. Andiamo! Sono disarmata! Non sparate, vi prego! Continua a girarci intorno. Non mi sembra che ci voglia attaccare. Sta continuando a gridare qualcosa. Noi dobbiamo compiere la nostra missione. Muoviamoci. Dobbiamo far cadere questo piccolo mostro tarlo nella Valle del Vento. Si avvicina. Spara appena arriva a tiro. Apri il fuoco, che aspetti? Ma l'abito di Lastel! Io amavo Lastel! Togliti! Piccolo, che dolore. Perdonali. Devi soffrire molto. Non sono stati così crudeli con te. No, sta fermo. Se ti muovi perderai molto più sangue. Guarda che cosa ti hanno fatto. No, non muoverti, ti prego. Se ti muovi starai peggio. Sta fermo, ti prego. Cerco di toglierteli io. Oh? Guarda, i mostro Tarly! Scappiamo! E quella ragazza? No, sta fermo! Non puoi entrare in quell'acqua! È lago acido! Bruceresti vivo! Ti prego, non odiarmi. Io non sono tua nemica, lo capisci? E mostro Tarly! E vanno verso la valle! No, mostro Tarly! Mostro Tarly, vi prego! Non distruggete la nostra valle! Devo fare qualcosa per fermarli. O per noi sarà la fine. Poveri idioti, non capiscono che sparando li fanno soltanto infuriare di più. Oh, poveretti. Su, avvia il motore, dobbiamo andar via. No, cosa fai? Non sparare, mi arrendo. Non sparare, ti prego. Fate sollevare la vostra nave. Dobbiamo portare quel piccolo dai suoi. No, non dire sciocchezze, è assurdo. Ormai niente può fermarmi. Oh, oh. Ci poserete in un punto più avanti in cui possa fermare i mostrotarli. Ma cosa dici? Morirai di sicuro. Ci uccideranno, Grandama, vero? Non si può sfuggire al destino, meglio accettarlo. I nostri cannoni non li presto, fermano. Presto, ritiriamoci. E dove, idiota? Non c'è posto in cui ritirarsi. Arrivederci! Dove andate? Non abbandonate i posti! Dobbiamo resistere! Tornate indietro! Fermi! Oh, guardate! C'è la principessa Kushana con il guerriero invincibile! Davvero orrendo, ma se ci può salvare. Va, guerriero invincibile, quelli sono i nostri nemici. Annientali tutti con le tue spaventose armi termonucleari. Capisco come è stato distrutto il mondo. Viva la principessa Kushana! Ha distrutto il nostro paese! Sono ancora vivi! È tutto qui quello che sai fare, dimostra quello che vali! Thank you. Ma che succede? Via, presto! Il guerriero invincibile è morto. È morto? Andiamo! Ci troviamo! Il guerriero invincibile è morto. Meglio così, piccola mia. L'ira degli insetti giganti è la giusta ira della nostra terra. E con così orribili armi che l'abbiamo contaminata e distrutta. C'è la principessa! E se ne usica! Ma cosa vuol fare? Quei mostri la schiacceranno! Guarda, i loro occhi sono tornati azzurri. Sento che la collera è scomparsa dall'aria. Si sono fermati. I mostrotarli si sono fermati. La principessa è morta. Principessa non si muove più. Ha sacrificato la sua vita per salvare la nostra. Mai più rivedremo la nostra amata Nausicaa. Guardate! Ma cosa fate? Che succede? Luce. Qui sta succedendo qualcosa di strano. Scoiattolino. Ciao, mostro Tarlino. Sono contenta che tu stia bene. Ti ringrazio. Grazie. Grazie. Ma è un miracolo, è ancora viva! Sento che l'aria è piena d'affetto, di un immenso amore, così tanto amore che mi viene da piangere. Oh, come mi sento felice! Raccontatemi quello che vedete, bambine! Nausicaa discende dal cielo ed indossa un abito azzurro. E là dove posa i piedi, il cielo diventa d'oro! C'è l'antica leggenda. Un uomo scenderà dal cielo vestito d'azzurro e il cielo diventerà d'oro al suo passaggio. Oh. Cosa c'è, grandama? Ma non capite, piccino. L'antica leggenda si è finalmente avverata. Guarda! Guardate lassù, l'ala della principessa! Sta volando da sola! È spaccato il vento! Ah!